9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. Buongiorno cari ascoltatori, partiamo anche questa mattina con quella che è diventata da qualche settimana a questa parte la sigla praticamente della nostra trasmissione, anche quella della sua conclusione, di End e Doors. Perché? Perché si avvicinano ormai poche ore dall'Eurovertice che il 9, quindi dopodomani, dovrà dire una parola che speriamo sia adeguata all'altezza di questa colossale crisi dell'euroarea che da 2 anni dalle elezioni greche ci trasciniamo dietro e che ha visto il nostro paese alla sbarra, accusato di essere il potenziale detonatore dell'esplosione stessa dell'euro. Bene, sapete bene che sui giornali, nel dibattito pubblico italiano, resta la manovra varata qualche giorno fa dal governo di emergenza Monti al centro per molte pagine su ogni quotidiano, delle spiegazioni da offrire ai lettori, agli ascoltatori dei commenti. Anche oggi trovate sul Sole 24 Ore un ricchissimo dossier di 28 pagine per capire tutte le novità e per capire come funzionano gli aggravi sulle tasse immobiliari, come funzionano gli allungamenti dell'età pensionabile, 2 pilastri fondamentali di questa manovra, ma anche per capire tante altre cose. Le accise sulla benzina hanno portato ai primi immediati rincari e quindi guardatevi le guide. Ma oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata a un approfondimento, a una lettura della contingenza italiana, della dimensione sociale, antropologica, dei problemi di questo paese, guardando a queste questioni da un altro punto di vista, perché oggi è mercoledì 7 dicembre ed è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è il patrono di Milano. Sant'Ambrogio è una figura caratteristica perché funzionario imperiale della fine del IV secolo, scelto a furor di popolo, è il caso di dirlo, non aveva fatto studi teologici, come vescovo di Milano in un'epoca in cui c'erano contrasti pesanti tra cattolici e ariani, e c'erano contrasti pesanti tra diverse comunità, c'erano problemi sociali, c'erano problemi politici, indicato come vescovo, malgrado la sua volontà lo diventa, e diventa uno dei 4 dottori della Chiesa di maggior livello, proprio per questa capacità di saper unire insieme la visione del funzionario pubblico, delle cose pubbliche, della dimensione sociale della propria comunità, con una visione rigorosa dell'uomo di Chiesa, e soprattutto con una grandissima capacità di fare pastorale, di pensare al suo popolo come al popolo dei cristiani con cui condividere i problemi, e tentando di guardare più in su, dalla dimensione antropologica che fonda tutto a quella, ovviamente, per chi crede, di Dio e del Salvatore di suo figlio. E allora, siccome in questo giorno di Sant'Ambrogio, anzi la sera prima, la tradizione a Milano è che l'arcivescovo tenga un discorso alla presenza di tutte le autorità civili e lo tenga alla presenza ovviamente dei fedeli, ne abbiamo approfittato perché, poiché da qualche mese è arcivescovo a Milano Angelo Scola, che è stato patriarca di Venezia prima, anche quest'anno, stando a Milano, noi confermiamo quella che è diventata una tradizione. Lo facevamo per il discorso che teneva a Venezia in una circostanza analoga, lo invitavamo in trasmissione, e anche quest'anno, ora che siede sulla cattedra ambrosiana, Sua Eminenza Angelo Scola ha accettato di venire con noi a discutere esattamente di ciò che ieri con la sua allocuzione ha posto al centro della riflessione, anche perché lo ha fatto entrando esattamente nel tema della crisi economica e finanziaria, facendo alcune osservazioni su questa crisi economica e finanziaria e facendo dei richiami. Allora io innanzitutto lo ringrazio e lo saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo, mi ha un po' sorpreso, Eminenza, perché ieri a un certo punto lei nella sua allocuzione ha proprio dato una definizione tecnica di questa crisi finanziaria che noi tutti attraversiamo. Ha parlato della finanza che è andata oltre l'economia reale, poi a un certo punto ha detto, certo, non spetta a me, però partiamo da questo presupposto. Ecco, quindi devo dire, ci si sente meno soli quando si dice che bisogna tornare all'economia reale. Ma perché? In cosa consiste, secondo lei, il fatto che dobbiamo rimettere la dimensione antropologica dell'uomo al centro della nostra analisi? Ma consiste nell'inevitabile e quindi necessaria sottolineatura del perché e del per chi noi ogni ogni giorno il mattino dopo la strana parentesi del sonno riprendiamo con energia il lavoro e i rapporti. L'uomo cammina quando sa bene dove andare. Allora, a me colpisce molto un fatto, lo dico da cittadino medio, cioè la grandissima difficoltà che il cittadino medio ha di capire la cosa di cui si occupa l'economia. Tutto è diventato così articolato, così complesso, che diventa difficilissimo rendersi conto, salvo quando poi la vicenda ti tocca sulla pelle, come in questo caso, e anche dolorosamente. Ed è lodevole lo sforzo di tutta la stampa per spiegare, per far capire, le grandi pagine didascaliche dei giornali dedicate a questo. Ma questo, secondo me, però succede non a caso, succede per la separatezza in cui l'economia e la finanza, nella sua pratica e nella sua riflessione, si è posta. È necessario che anche a questi livelli concretissimi, che concernono tutti i cittadini e tutti gli uomini, recuperare la ragione profonda, che è il punto nel quale anche la tecnicità può agganciare la mia persona di profano o di non esperto, insomma. E a un certo punto, a proposito di esperti, lei dice non basta la competenza fatta di calcolo, di esperimento. Per affrontare la crisi economico-finanziaria occorre un serio ripensamento della ragione, sia economica che politica, come ripetutamente ci invita a fare il Papa, perché dice chi ha il compito istituzionale di imporre sacrifici dovrà farlo con criteri e obiettivi di giustizia ed equità. Ce ne sono abbastanza, secondo lei? Bisogna fare di più? Non è, immagino, una critica ai provvedimenti precisi, ma insomma è un appello ad essere ancora più attenti all'impatto che ha sulla vita delle persone. Aggiungevo a questi due termini, giustizia e equità, la necessità che il tutto sia immesso in un'idea adeguata di sviluppo integrale della persona e della società, che non è riducibile alla pur necessaria crescita del PIL. Cioè, mi colpisce molto che uomini di alta levatura tecnica, politica, eccetera, non facciano mai lo sforzo di parlare alla mente e al cuore dei cittadini per dare un senso anche alle necessarie misure tecniche e per far loro capire che questi sacrifici produrranno qualcosa. Se si toglie la questione del senso, cioè la dimensione antropologica e etica, alla ragione economica e alla ragione politica, si toglie la speranza nel futuro. E se io non ho speranza nel futuro, perché devo far sacrifici? Questo a me sembra un punto elementare, quasi ovvio notarlo, tant'è vero che molti passeranno sopra a questo mio richiamo, eppure è il punto decisivo. Cioè, basti pensare a come viviamo in famiglia, a come viviamo nel condominio, nel quartiere, nella città. Io penso alle comunità cristiane, ci rimotiviamo sempre a partire dal perché e dal per chi facciamo ciò che facciamo, figurarsi se ci viene domandato, giustamente per il bene comune, di fare gravissimi sacrifici. Cioè, non mi basta la risposta crolla l'euro. Capisco che questo è il sintomo gravissimo di un disagio che viene prima. Il disagio che viene prima è come facciamo a dare finalmente un futuro a questa Europa? Come facciamo a pensare realmente ad un costrutto mondiale in cui tutti siano realmente stimati come persona e messi in condizione di vivere dignitosamente? Altrimenti anche la crisi nostra dell'Eurozona ci chiude su noi stessi, ci incurva e secondo me ci impedisce anche di avere nuove prospettive di tipo economico, ci impedisce di trattare l'Africa in un certo modo o gli altri paesi in difficoltà in un certo modo. Insomma, bisogna allargare la ragione economica e la ragione politica. E a seguire lei fa tre osservazioni culturali prima di arrivare alle indicazioni concrete che ne derivano per la comunità. Fa tre osservazioni culturali, uno sul rapporto tra ricchezza e felicità, il secondo è sulla secolarizzazione, cioè sull'autonomia del mondo concreto reale rispetto alle ragioni della fede, e il terzo è su come bisogna concepire rispetto alla avidità dei consumi eccetera la società. Le posso chiedere di fare qualche passaggio su questi punti tenendo conto di una cosa: noi abbiamo moltissimi ascoltatori che incessantemente ci dicono la Chiesa però predica bene, razzola male, perché su questa questione dell'ICI è la prima che fa eccezione. Io aspetto prima che lo dica lei, perché io rispondo sempre. Ancora oggi io invito tutti a trovate sull'Avvenire, l'Avvenire, che è il giornale della Conferenza Episcopale, una risposta, devo dire di tono anche tagliente stavolta, a questa cosa concreta che tutti gli ascoltatori chiedono. Perché dovete sapere che questa storia che l'ICI la Chiesa non la pagherebbe su tutti i beni nei quali c'è un esercizio di attività commerciale è in fondata. La Chiesa non paga l'ICI su quei beni immobili che sono direttamente connessi alla propria attività, non all'esercizio di cose commerciali, turistiche eccetera, sui quali paga, e la Chiesa Cattolica in questo è sollevata dal pagare l'imposta come tutte le altre confessioni che hanno intese con lo Stato. Quindi lo dico io perché è mio compito informare la gente, perché non se ne può più di questa roba qua. Però torniamo alle tre osservazioni culturali, perché mi diranno che sono naturalmente l'ateo devoto, ma insomma lasciamo perdere. Vabbè. Però la gente bisogna che sappia le cose come stanno. La ringrazio molto, perché lei l'ha detto con una precisione tecnica di cui io non sarei certo stato capace. No, io ho voluto appunto con queste tre osservazioni di carattere che ho chiamato culturale dare un'indicazione sulle cause di questa restrizione della ragione economica e della ragione politica. Il primo discorso è legato a, lo dice Gesù tante volte nel Vangelo, che se anche hai guadagnato tutto poi perdi l'anima, dove vai a finire? Lo diceva Aristotele, dicendo che è mostruoso identificare la ricchezza con la felicità, ma tutti noi lo sperimentiamo. Eppure c'è una tendenza a sottolineare come unico scopo assoluto dell'azione lavorativa, dell'azione economica e finanziaria il profitto. Nessuno è contro l'equo profitto, che è evidentemente necessario per il dinamismo della condivisione dei beni, ma soprattutto si dimentica un dato molto importante che la Chiesa ha sempre sottolineato fin dall'epoca dei padri, e cioè che i beni ci sono dati in uso, cioè la proprietà privata come categoria che secondo la grande tradizione cattolica si rese necessaria dopo il peccato originale, non significa possesso individualistico, significa criteriare l'uso dei beni che ti sono affidati, che per loro natura hanno una destinazione comune. Nessuno deve cadere in utopismi e ideologismi ed importi con la violenza dall'esterno la modalità di questo uso comune, ma tu te ne devi fare carico. È una grande e forte sottolineatura della libertà. Per quanto riguarda il tema della secolarizzazione, questo è un tema complicato, io volevo solo fare un richiamo al mondo cattolico e dire che non si può confondere la grande tesi conciliare della giusta autonomia della realtà terrene col pensare all'impegno concreto nei vari ambienti del mondo, nel lavoro, nella finanza, nella politica, nell'economia, nei mass media, nell'arte, come se questi fossero mondi neutri in cui il senso della vita, quindi il significato, una direzione, non entrino in gioco. Tante volte anche il mondo cattolico in questi anni ha dimenticato questo dato e quindi ha pensato che queste realtà si potessero affrontare e vivere senza un riferimento chiaro a Dio, senza un riferimento chiaro alle relazioni buone e al bene comune. In questo senso ho anche voluto dire che i richiami autorevoli che sono venuti dal Papa e da altri vescovi e cardinali a un impegno più diretto di tipo partitico per i cattolici sono un richiamo a recuperare questa visione integrale della politica che va ben al di là della realpolitik e non sono un invito a costruire nuove alchimie formazioni per così dire politiche, alchimie partitiche, insomma non è quello. Però a ricordarsi di essere coerenti è quello il vero problema, e cioè a immettere il senso nell'azione concreta, e questo per esempio, cioè, è una motivazione quel che si sta dicendo in questa fase di grande emergenza attraverso questo governo, e per il bene del paese che chiediamo questi sacrifici, però è ancora una motivazione di carattere troppo immediato, bisogna andare più in profondità. E allora un altro tema che a me sta a cuore è inserire questo discorso sulla crisi economica finanziaria nel più profondo e radicale processo, inedito processo di trasformazione, di transizione che è in atto dopo la caduta dei muri, altro che fine della storia. Quando si va sul terreno delle indicazioni concrete, oltre al fatto coerente alla partenza che abbiamo dato con la sua definizione della crisi, dove la finanza prevale sull'economia reale, e quindi la prima indicazione è quella di rimettere il lavoro, l'impresa, l'uomo al centro del lavoro dell'impresa rispetto alla finanza, ce n'è una che può sembrare un po' fuori linea rispetto ai temi su cui poi si dibatte, rigore, la finanza pubblica, la finanza, il lavoro, perché è quella del richiamo a una priorità che discende appunto dal fatto, non solo dalla dottrina della Chiesa, ma discende anche da un'analisi poi rigorosa di come una società può andare avanti o meno, perché se una società poi dimentica la centralità della famiglia, non ha più figli, ha una curva demografica come quella dell'Italia, la realtà è che noi possiamo procedere a botte di tasse nuove e metterci in regola con l'equilibrio del bilancio pubblico, ma ci dimentichiamo che poi portando lo sguardo un po' più in avanti, lo facciamo con una prospettiva che è quella del declino. Allora, toccare questo punto, quello della famiglia, che ancora una volta non c'è nelle misure del governo, non c'è nelle priorità della politica, anzi si tende a dire oramai che chi solleva questo tema è come se fosse una specie di inveterato ortodosso cattolico che lo fa per dogmatismo, invece che per richiamare tutti al fatto che c'è una curva demografica tale per cui questa società non reggerà se non cambiamo marcia. Perché è così importante secondo me? Io sono membro del comitato per il progetto culturale della CEI e ho visto il formarsi di questo rapporto sulla demografia che è stato curato da taluni dei membri, taluni dei quali veramente molto, molto esperti. Devo dire che la mia ignoranza era abissale e io sono rimasto veramente scioccato dai dati che sono emersi e dal rischio di declino a cui il Paese va incontro perché non ha mai preso sul serio questa questione. Questo è molto importante perché, come ha detto molto bene lei, fa vedere che il valore famiglia a cui il mondo cattolico, l'insegnamento della Chiesa tiene da sempre perché ha a che fare con l'elemento fondamentale della vita degli uomini e delle donne, cioè l'elemento che rende più evidente ad ognuno di noi la dignità umana è proprio il fatto di essere situati ciascuno in una differenza sessuale che spalanca la relazione e che apre alla fecondità. Il matrimonio e la famiglia sono la risposta, come dire, semplice e ovvia a un dato che è autoevidente, non c'è bisogno di fare ragionamenti su questa cosa, ogni uomo ad ogni latitudine sa questo, ma tuttavia arrivare all'importanza del discorso della famiglia è fondata sul matrimonio come rapporto stabile aperto alla vita di un uomo e di una donna per via demografica dimostra appunto che il valore famiglia, il valore matrimonio ha una incidenza sociale di primaria importanza ed è quindi un fattore di costruzione di vita buona da cui non possiamo prescindere. Ora è gravissimo secondo me che questo dato non sia raccolto attraverso delle politiche ordinate e rigorose, perché conferma l'ostinata e progressiva tendenza anche del postmoderno ad affermare una identità puramente individuale. È come se l'io non fosse strutturalmente dal concepimento alla morte e anche nella vita eterna sempre e solo un io in relazione. Senza il tu io non riesco a dire fino in fondo io. Quindi io credo che su questo punto dobbiamo tutti, riflettere prima ancora di parlare di altri problemi la cui delicatezza io non voglio sottovalutare, relativi ai rapporti tra i cosiddetti generi, espressione che a me non piace. Dobbiamo comunque andare realmente a fondo per scoprire l'unità tra la dimensione affettiva, la dimensione del lavoro e la dimensione del riposo nella vita dell'uomo. Se non ripensiamo uno stile di vita nel vivere queste tre dimensioni comuni all'esperienza di tutti, noi usciremo magari, tecnicamente parlando, da questa crisi, forse la recessione finirà, ci andrà un pochino meglio, ma non usciremo cresciuti, aumentati, con più gusto di vita, con più capacità di bello, di buono e di vero. Eminenza, nell'ultimo minuto le chiedo, è ovvio la Chiesa universale, ma quando si tratta di fare poi pastore di comunità, contano anche le radici, le storie, gli uomini a cui si parla, i cuori, le loro teste sono fatti di storia e di radicamento. Allora, in questo momento le chiedo, lei ha preso il sacerdozio nel 1970, è passato una lunga parte della vita facendo il pastore, che senso ha per lei ancora essere italiano quando poi l'Italia viene associata a tanti difetti nel mondo, viene considerata un paese incapace di darsi buone politiche, buone governance, i cui uomini pubblici spesso identificano un carattere di italiano e gli italiani dicono no, ma non è vero, noi siamo meglio di quelli, siamo proprio così distinti o siamo un po' rispetto ad altri troppo impastati dei difetti? Lei che pensa dell'identità italiana adesso? Ma io penso che noi siamo un popolo formidabile. Siamo un popolo formidabile perché sappiamo coniugare la pluriformità delle nostre regioni, delle nostre città, delle nostre culture, ultimamente dentro una unità perseguita forse troppo pragmaticamente, forse troppo poco riflessa, ma c'è un dato che io cito sempre perché ho visto proprio nella mia azione pastorale di questi anni, soprattutto nella vita pastorale, siamo la società civile sicuramente più ricca d'Europa e forse del mondo. C'è un pullulare di vita dal basso che indica un senso dell'umano, una capacità di condivisione del bisogno, un peso dato all'altro, una creatività e una inventività, un'energia nel dilatare il bisogno verso il desiderio che colma il cuore dell'uomo che sinceramente, adesso non è inutile fare classifiche, non è così rilevante nei paesi europei che abbiamo intorno. Poi vabbè, avremo i nostri difetti, per così dire, però questa ricchezza c'è. Sì, è di notevolissima importanza e di grande valore. Io devo ringraziare l'Arcivescovo di Milano, Sua Eminenza Angelo Scola, perché ha i suoi doveri, deve andare al Pontificale perché oggi è Sant'Ambrogio, di averci aperto con questa lettera che ci ha dato ieri, con questi spunti che, come vedete, sono profondamente radicati nella realtà della crisi economica, finanziaria, del lavoro, della famiglia, dei giovani che stiamo vivendo. Grazie Eminenza. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. E noi andiamo in pubblicità. Buona giornata. Eccoci qua per questa seconda parte, alcuni tre avvisi brevi agli ascoltatori. Primo, mi dispiace che molti siano partiti con raffiche ed insulti su questa storia dell'ICI. Dite che altri conduttori hanno altre idee, le rispetto. Dite che è falso che paghi l'ICI per i beni strumentali a fini commerciali, perché, come è noto, dice qualcuno di voi, in ogni albergo della chiesa c'è un altare, quindi non pagano. Io non voglio, guardate, se per alcuni di voi il ripianamento del debito pubblico si fa come siete convinti, io non entro in queste questioni. Quindi, primo avviso, per me è semplicemente elementare raccontare le cose come stanno, dopodiché ognuno si faccia le sue opinioni. Se pensate che il debito pubblico italiano nasce dai preti, la sorridere perché sono un laico repubblicano, però vabbè. Seconda osservazione: a coloro invece, da quando sono stato fatto oggetto di un attacco alla statale di Milano, io mi tutelerò perché riguarda la mia persona fisica. Quindi chi utilizza il 349-238-6666 per minacce, perché ci sono anche quelli, io girerò questi messaggi alla polizia postale, quindi lo dico a chi anche stamattina sta utilizzando il 349-238-6666, non per interloquire con Radio 24, con il conduttore di turno che in questo momento sono io, ma per usare minacce e per insulti diretti. In questo caso io li giro alla polizia postale, da oggi in poi sarà così, quindi regolatevi. Il che non significa non poter esercitare durissima critica, come avete sempre fatto nei confronti dell'umilissimo conduttore qua, ma usare minacce fisiche cose che da codice penale, da quest'oggi io li giro alla polizia postale, sappiatelo. Terza cosa, no, lo dico educatamente a chi mi attacca, perché abbiamo invitato l'arcivescovo di Milano, il proselitismo, ma cos'è Radio 24, è diventato il tabernacolo, una chiesa. Sentite, cari ragazzi, non so se vi siete improvvisamente distratti e pensate che la sede del pontefice sia a Roma per caso, per una maledizione, per molto di voi, non lo so, però insomma non è che si cancella improvvisamente solo perché l'Italia è secolarizzata, come tutto il mondo avanzato, il fatto che esiste una radice cristiana. E non è che quindi dobbiamo sentir parlare i politici più o meno credibili, quasi sempre meno credibili e senza titoli, e poi non possiamo una volta l'anno invitare un arcivescovo alla mia trasmissione. Capita una, due volte l'anno e c'è questa reazione così scomposta. Ma che vi prende, ragazzi? Ma che vi prende a tutti? Cioè, ma è possibile mai che la diseducazione profonda di questa lotta tribale a cui l'informazione da vent'anni ha ridotto questo paese non faccia altro che essere seguita e abbracciata da voi con questo cieco fanatismo? Lo dico proprio con tutta l'indignazione, perché non lo so a cosa vogliamo arrivare. Io i pomodori, i calci e cose me li prendo, però francamente inizio a preoccuparmi. Ecco, quindi cambiamo marcia, per favore, ecco, ve lo chiedo in ginocchio. Qualche minuto, due minuti per la rassegna stampa europea che non ho fatto a inizio di trasmissione, che oggi è importante, però, perché dopo i sei punti convenuti tra Francia e Germania in vista del vertice del 9, ieri c'è stata, per così dire, la controffensiva della Commissione europea, perché Van Rompuy ha proposto in realtà, rispetto a quei sei punti, un protocollo di modifica ai trattati molto più limitato. In realtà si limita semplicemente a un protocollo che sta in 30 righe, veramente, le modifiche da apportare ai trattati, esattamente sul tema delle sanzioni. Trovate questo sull'intera stampa europea, anche sui giornali italiani, sia pure dopo, molte pagine dopo, la spiegazione di come funziona la manovra. Financial Times Deutschland ci informa stamattina che la Gran Bretagna chiederà comunque un veto, sia pur non avendo il coraggio di rifiutarsi al nuovo pacchetto di stringi bilanci e di procedure che verrà varato il 9, chiederà comunque un veto per la materia specifica della regolazione finanziaria. Qui il problema è la Tobin Tax. Avete sentito tra l'altro che il governo Monti con Grilli ha fatto un'apertura che il governo Berlusconi non aveva, sia alla Tobin Tax chiesta per, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie chiesta dai franco-tedeschi. Standard & Poor's, dopo la minaccia ai sei paesi che con tripla A dell'euroarea, ieri l'ha fatta anche per la tripla A di cui gode l'FSF, ma la novità è che c'è chi pensa che queste minacce in realtà di Standard & Poor's siano utili, perché servano ad ammorbidire i tedeschi, esattamente avvicinandosi all'eurovertice. E questa è la tesi sostenuta per esempio da Norbert Gaillard su Le Monde, che benedice da questo punto di vista questi report dati da Standard & Poor's in questi giorni. Financial Times Deutschland indica anche che in queste ultime 48 ore sarà Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, il personaggio sul quale i politici di maggior rilievo europeo come Mario Draghi dovranno per forza comporre il suo numero di telefono per vedere che cosa si potrà e non si potrà fare davvero. Infine, un'ultima cosa, ogni tanto guardo sempre il Bild per capire come a 10 milioni di tedeschi, a tanto arrivano i lettori a volte del Bild, il giornale popolare tedesco, come gli rappresenta l'eurocrisi. E il Bild oggi ha un articolessa di 4 pagine che parte dalla prima su come la Germania viene oramai considerata con disprezzo, con sospetto, con odio dagli membri meno virtuosi dell'euroarea, e quindi oggi c'è questo lungo servizio in cui si fa riferimento per esempio a giornali come il Daily Mail e al suo titolo Benvenuto contenuti del Quarto Reich, a giornali polacchi, con il primo ministro, il ministro degli esteri Radoslaw Sikorski, che ha avuto una battuta nei confronti dei tedeschi molto pesanti, giornali greci, c'è anche un giornale italiano, c'è Libero, di cui viene riportato un titolo: Heil Merkel e Bid, dice, questi sarebbero quelli per i quali vi si chiede di pagare. Come vedete, poi la demagogia c'è in tutti i paesi, non è un difetto solo italiano, perché naturalmente ridurre la questione dell'euro a chi paga per chi è giusto, bisogna sempre farsi conti in tasca. Io penso che noi italiani abbiamo da questo punto di vista molto di cui batterci il petto, prima di dare la colpa invece a chi è più virtuoso di noi. Però c'è una questione: se c'è l'euro serve come scudo comune, c'è anche una convenienza comune. Lasciate che vi legga due parole da questo punto di vista a proposito di sermoni. Ho iniziato a leggere i sermoni politici dei padri fondatori dell'America, sono due meravigliosi volumi pubblicati da Liberty Fund. Vi leggo una frase pronunciata da Israel Evans il giorno delle elezioni di fronte alla Corte Suprema del New Hampshire del 1791, perché si tenevano i sermoni nelle occasioni pubbliche in cui si andava a votare, eccetera, eccetera. Si tenevano i sermoni, per esempio, il 30 gennaio di ogni anno. Perché? Perché era l'anniversario in cui si era tagliata la testa a Carlo I, la prima testa caduta perché c'era lo Stato che chiedeva troppe tasse. Il 30 gennaio, quindi, si tenevano i sermoni per ricordare a tutti gli uomini di Stato che di troppe tasse è giusto poi che il tassato ti tagli la testa. E in quel giorno, nel 1791, Israel Evans dice nel sermone, il giorno delle elezioni, per ammonire i politici che saranno eletti, dice testualmente: i principi di un popolo libero sono direttamente opposti alla tassazione senza il consenso esplicito del popolo. I denari non dovrebbero mai essere storti con la violenza dalle tasche del cittadino, dovrebbero essere al più ricevuti come un libero dono del cittadino da parte del politico, come una libera contribuzione commisurata al pagare per la sicurezza delle proprie vite, delle proprie persone, delle proprie proprietà. Fate in modo, cari politici, che i componenti del popolo siano convinti che le vostre domande al popolo, non i vostri ordini al popolo per decreto, ma che le vostre domande al popolo siano ragionevoli, proporzionate e necessarie, e che esse non siano corrisposte per le esigenze della macchina pubblica, vostre che le guidate con le vostre fazioni e partiti, e di coloro che assumete con i denari del pubblico contribuente. Fate in modo che al contribuente innanzitutto risalti la funzione primaria di libero cittadino e non di schiavo ai vostri ordini. Ecco, questo era il sermone tenuto ai politici che erano candidati il giorno delle elezioni nel 1791 del New Hampshire. Come erano belli quei sermoni religiosi, eh? Ecco di che cosa si nutre la convinzione che poi, quando ci sono sempre troppe tasse, va benissimo che le giustifichiamo come ieri in televisione, ma sempre troppe tasse si tratta e lo Stato sempre più ipertrofico diventa. Ora è con noi Massimo Cacciari, col quale volevamo continuare a commentare i toni e i temi che ha usato l'arcivescovo di Milano, rimettendo l'uomo al centro di questa crisi economica. Io lo ringrazio, buongiorno Cacciari. Buongiorno. Allora, ha letto il testo, in realtà di questa maniera di pastore della Chiesa come scuola, che lei conosce bene, è stato patriarca a Venezia, ma insomma lo segue da anni, avete fatto molti dibattiti pubblici, alcuni lo accusano di essere un po' così fissato con questa dimensione antropologica della crisi, altri naturalmente di navigare troppo alto come fanno i pastori della Chiesa. In realtà, tra questi due punti di riferimento, qual è in concreto secondo lei il punto più di forza e anche quello, insieme gli chiedo, più di debolezza dell'azione della Chiesa rispetto a questi anni di travaglio nel nostro paese? Sono capaci questi pastori in realtà di interpretare la pancia e la testa di una fetta di italiani, oppure parlano e si comportano in un modo come l'ICI, di cui abbiamo parlato anche oggi, che agli italiani poi non convince, secondo lei? Ma veda, sostanzialmente la posizione di Scola, come di tanti altri esponenti della Chiesa, ricalca perfettamente le posizioni antiche. La dottrina sociale della Chiesa praticamente è rimasta immutata da un secolo e mezzo a questa parte, da Leone XIII. Quindi la debolezza, la forza è implicita nella nella tradizione secolare della Chiesa, è implicita in questa grande organizzazione, che è anche un'organizzazione politica e non soltanto un'organizzazione religiosa. La debolezza sta nel fatto che sostanzialmente non riesce questa dottrina ad adeguarsi alle trasformazioni epocali nel frattempo avvenute. Il discorso che fa sulla centralità dell'uomo rispetto ai meccanismi del profitto, dell'accumulazione, eccetera, eccetera, sono rimasti identici. E quindi concretamente i temi del capitale finanziario, i temi della trasformazione appunto del capitalismo, la grande trasformazione che è avvenuta negli ultimi anni, per cui praticamente ogni giorno si tratta sulle piazze del mondo una cifra pari, mi pare, a due volte il prodotto interno lordo francese. Cioè, voglio dire, queste colossali trasformazioni che hanno cambiato il volto del capitalismo, il volto della composizione sociale, anche antropologicamente, non possono essere affrontate dal punto di vista di una dottrina sociale che risale alla metà dell'Ottocento, cioè a quel capitalismo, a quei rapporti di classe. Senta, le faccio una domanda concreta. Io sono cresciuto in un'Italia in cui la finanza era spaccata in due, c'era la cosiddetta finanza laica, Mediobanca, Cuccia, c'erano poi le banche di Stato dove c'erano i banchieri cattolici. Quel mondo è finito, per fortuna, i mercati sono stati aperti, abbiamo privatizzato le banche. Ma le chiedo, rispetto a tanti banchieri italiani che ostentatamente a volte si dichiarano cattolici, fanno conferenze di interpretazione di esegesi biblica, eccetera, eccetera, lei, nella realtà dei fatti, un banchiere davvero cattolico nei suoi comportamenti, nei suoi bilanci, nella maniera in cui raggranellava o faceva raggranellare a finanziari amici le azioni di controllo delle sue banche, ma lo ha visto davvero nell'Italia di questi anni? Ma veda, sì, siamo appunto qui sulle questioni di principi. Se la domanda è posta in termini generali e nello stesso tempo fondamentali, non ha alcun senso pensare a un banchiere cristiano. Cosa c'entra? Cioè, è talmente evidente che non c'è nessun possibile appiglio nella dottrina, nei fondamentali del cristianesimo che possa giustificare pratiche di carattere finanziario. Cioè, quindi non ha senso porre la domanda in termini, come dire, filosofico-teologici. Quando si parla di un banchiere cristiano, eccetera, eccetera, si parla semplicemente di un banchiere che ha comportamenti eticamente corretti, cioè che cercherà di cioè, in regola col codice civile e penale, insomma, basta. Appunto, ma che cosa c'entra col cristianesimo? Non può c'entrare assolutamente niente col cristianesimo, appunto, questa è anche una debolezza, come dire, inevitabile dal punto di vista teologico della Chiesa, che quando predica al capitalista, al finanziere, eccetera, eccetera, di comportarsi, tra virgolette, cristianamente, in realtà non fa che una predica di carattere etico, che potrebbe essere buona per il cristiano, come per me, come per lei, come per chiunque altro. Cioè e non può essere diversamente, voglio dire, non è una critica che gli faccio, non può essere diversamente, perché non c'è nessuna possibilità di giustificare da un punto di vista cristiano propriamente detto qualsiasi finalità al profitto. Non esiste, non può essere, in realtà è una sovrastruttura interpretativa che è servita alla politica e magari alle storie finanziarie italiane, questa storia di dirsi che i cristiani, di qua i banchieri cristiani, la finanza bianca, no? Un banchiere cristiano di fatto, così come si deduce anche dalle posizioni, dalle dichiarazioni della Chiesa, non è nient'altro che un banchiere che nei limiti del possibile userà dei margini del profitto della propria attività per scopi benefici, ma questo cosa magari c'entra con esatto. Non è una cosa. Beh, benissimo, un secondo, torniamo perché abbiamo un minuto sull'informazione stradale, poi torniamo con Cacciari. E mentre riparte, come sempre, nella parte conclusiva, come quella iniziale di Sden dei Doors, stiamo interrogandoci su Massimo Cacciaro sulle parole pronunciate per Santa Brogio dall'arcivescovo di Milano, Sua Eminenza, il cardinale Angelo Scola. Chiedo a Massimo Cacciari, da questo punto di vista, l'enfasi con cui molti immaginano che ci siano sviluppi a breve, anche sollecitati e favoriti da questo governo di emergenza, in cui il centro cattolico riprenda forma, dal PDL escano sul richiamo di una linea diversa della CEI ai politici, ci ha fatto anche un accenno anche Scola stamattina su questo, e diano vita a una nuova formazione che magari si avvantaggi del fatto di superare il bipolarismo. Lei come la pensa di tutto questo, Cacciari? Ma io credo che il governo Monti segni una netta discontinuità e mette in movimento dei processi che è difficile leggere al momento, però sicuramente se il governo Monti dura e se il governo Monti avrà successo anche dal punto di vista dell'immagine, dell'opinione pubblica, è evidente che attrarrà in modo forte non solo consensi, ma anche persone, personalità, correnti e dal PDL e dal PD. Ora la crisi del PDL è più evidente anche per lo stacco dell'alleato leghista, ma nel PD è tutta latente, è tutta potenziale, può esplodere da un momento all'altro. Se il governo Monti procede e Monti riuscirà ad assumere anche una sua fisionomia politica, è evidente che diventerà un formidabile attrattore per tutti quelli che sono in evidente disagio nel PDL e nel PD. A quel punto tutto l'equilibrio politico italiano può mutare. Si figuri se Monti dovesse partecipare attivamente alla campagna elettorale del 2013, a quel punto si candidasse, cosa fanno nel PDL e nel PD, chi lo sponsorizza, chi lo appoggia, chi lo propone come proprio candidato, ma non solo per la presidenza del Consiglio, perché potrebbe essere anche candidato alla presidenza della Repubblica, e comunque il leader indiscusso di una nuova situazione politica complessiva. Cioè io credo che sia tutto in movimento nel nostro paese, che nel 2013 andremo a votare con un quadro politico completamente diverso rispetto a quello del 2008. Io condivido integralmente queste parole conclusive di Massimo Cacciari. Credo anch'io non solo che l'offerta politica si modificherà per effetto di un governo al quale siamo arrivati per l'incapacità e l'inadeguatezza del governo e della maggioranza uscente, ma anche dell'alternativa di dare una risposta all'accusa che gravava sull'Italia di essere detonatore dell'euro, e quindi la modifica dell'offerta politica secondo me ci sarà ed è giusto che ci sia, ma in più penso che dal basso ci sarà una scomposizione dell'offerta politica. Io lo faccio in costanza di difesa del bipolarismo, ma sono molto convinto che per questo tutti i delusi, tutti coloro che hanno testa e critica debbano, invece che continuare a ragionare sui vecchi due schieramenti così com'erano, immaginare che questi sviluppi ci saranno, perché siamo arrivati a questo governo che dà delle risposte, criticabili o meno che siano, ma perché erano le articolazioni precedenti non all'altezza. Massimo Cacciari non ha mai fatto mancare il suo contributo per questo, ma credo che tantissimi italiani dovrebbero ragionare esattamente in questa prospettiva. Bene, sta finendo la puntata di questo Sant'Ambrogio, grazie ancora a Massimo Cacciari e al Cardinale di Milano. Per noi ora l'appuntamento continua con il giornale radio, appuntamento con me, a domani. Yeah.